my witness. I'll slice up some fruit and each to their peace for good intentions and truth. There will be a time when I will hold you again with my arms spread out. I will dive right in. So now here is your letter with everything I know about the weight of the world and the way things could go. Thank you.

E grazie, salve a tutti. Ci racconti un po' di cosa si occupa Amici dei Bambini, come è nata l'associazione e quali sono i suoi obiettivi? Fondamentalmente Amici dei Bambini nasce dall'iniziativa di alcuni genitori adottivi che dopo un'esperienza di vita personale hanno deciso di promuovere in generale e aiutare anche altre famiglie a combattere questa piaga dell'infanzia abbandonata. Quindi fondamentalmente Amici dei Bambini si occupa di bambini abbandonati, cercando di promuovere sia qui in Europa che in tutti gli altri paesi dove siamo presenti l'idea di famiglia, il valore della famiglia, la necessità che ogni bambino possa crescere in un ambiente familiare. Quindi cercando di prevenire innanzitutto l'abbandono, di cercare di reintegrare nelle loro proprie famiglie i bambini che temporaneamente non hanno la possibilità di crescere con i loro genitori, e quindi sostenere anche le famiglie di per sé affinché possano riaccogliere i loro bambini. Nei quei casi tragici nei quali non è possibile ciò, cerca di favorire quindi forme di accoglienza quali l'affido temporaneo o anche durature quali l'adozione. Voi avete una sede qui a Bruxelles, quindi nella capitale dell'Unione Europea. Quanto è importante l'Unione Europea? Cosa vi serve, fra virgolette, l'Unione Europea per portare avanti le vostre attività in favore dei bambini abbandonati, diciamo, dei bambini che non hanno una loro propria famiglia o che sono stati tolti dalle cure familiari? Beh, fondamentalmente una presenza qui a Bruxelles è stata un'evoluzione naturale. Non soltanto un'esigenza, ma proprio una presenza naturale a un duplice livello, sia nel momento in cui si è percepita la necessità di poter dare una visibilità ad iniziative importanti effettuate dalla nostra organizzazione sia in Italia che in altri paesi, e quindi poter dare da Bruxelles un impatto forte e una grande visibilità a quelle che sono da noi ritenute delle buone pratiche a favore dell'infanzia abbandonata o comunque dei bambini che non hanno senza famiglia. E dall'altro lato ovviamente si ha un feedback positivo da riportare anche in Italia, quindi all'interno della nostra organizzazione, perché qui a Bruxelles abbiamo l'occasione di poterci confrontare, oltre che ovviamente con le istituzioni, anche con altri partner complementari a quelle che sono le nostre attività, quindi dai rappresentanti di autorità locali europei ad altre ONG con le quali poter collaborare, così come cerchiamo di fare ad esempio all'interno del network di Eurochild dei quali siamo membri. Ecco, per non dimenticare il fatto che l'Unione Europea dà anche soldi, è anche una fonte di, diciamo, finanziamenti per le attività della vostra organizzazione. Beh, assolutamente, fondamentalmente la possibilità anche di stare qui è data dalla capacità di saper sfruttare anche queste possibilità di finanziamento comunitaria. Qui a Bruxelles è più facile capire il funzionamento anche di questi finanziamenti, ma soprattutto nel momento in cui qualsiasi tipo di progettazione finanziata dalla Commissione Europea nello specifico deve avere insita in sé una collaborazione a livello europeo, è assolutamente doveroso, oltre che obbligatorio, creare dei partenariati con altre organizzazioni europee, che da qui è più facile ovviamente contattare, con le quali è più facile condividere quelli che sono gli obiettivi delle proposte che poi si avanzano insieme. Fare rete, appunto, come parlavamo prima di Eurochild, di cui abbiamo già parlato a Onde Corte, che è un network che si occupa appunto dei diritti dei bambini e di fare un'azione coordinata a livello europeo riguardante i diritti dei bambini. Oggi siamo qui in Parlamento proprio perché Eurochild ha presentato uno studio che riguarda i bambini tolti dall'affidamento familiare, quindi o negli istituti o nelle case famiglia. Quanto pensi sia importante uno studio del genere? In cosa può essere importante uno studio del genere e un evento come quello di oggi per un'associazione come Amici dei Bambini? Ma innanzitutto è importante, la cosa che a me colpisce di più innanzitutto è la capacità di collaborare con facilità e con entusiasmo da parte del mondo delle organizzazioni non governative. Quindi fondamentalmente trovo significativo che si riesca a pubblicare e poi magari anche a presentare in eventi istituzionali come in Parlamento questa ricerca, una raccolta dati che di per sé potrebbe anche essere una responsabilità degli organi di istituzione di per sé. Quindi reputo significativo che il mondo delle organizzazioni non governative riesca a colmare questi gap, riesca fattivamente a contribuire a quello che può essere poi lo sviluppo di politiche a favore dei bambini, che non possono che partire da un'analisi dei dati reali e della situazione reale, perché dallo studio che abbiamo fatto emerge come ci siano sicuramente più di 1 milione di bambini in Europa che sono ancora in presidi residenziali o comunque che beneficiano di cure alternative che vanno al di là di quella di una famiglia, e di conseguenza è fondamentale che una rete riesca a mettere insieme il lavoro di tutte queste organizzazioni a livello nazionale. Ovviamente di per sé per noi è un grande valore aggiunto poter dare visibilità qui a Bruxelles a quelle che sono poi delle ricerche fatte a livello nazionale, e quindi c'è la possibilità di poterle integrare con quelle degli altri paesi nella speranza di poter avere un impatto europeo. Che ricordiamo che Amici dei Bambini ha collaborato a questo studio per quanto riguarda la situazione italiana. Sì, ovviamente noi insieme a un'altra organizzazione, l'Albero della Vita, che fanno parte, insomma rappresentano i membri italiani all'interno del network Eurochild e nello specifico del gruppo Children in Alternative Care, abbiamo comunque collaborato a questa raccolta dati, che nelle differenze tra vari paesi comunque è un primo punto fondamentale per poter poi continuare a riflettere su quelli che possono essere gli interventi migliori a favore di questi bambini in difficoltà. Un'ultima domanda, Alessandro, da qui a un anno quali possono essere le priorità della vostra organizzazione per quanto riguarda le attività a Bruxelles? Le priorità qui a Bruxelles, in linea fondamentalmente con quelle che sono poi le iniziative che stiamo prendendo insieme ad Eurochild, è sicuramente quella della deistituzionalizzazione. È assolutamente impensabile che in una società avanzata come la nostra un rimedio come l'istituto e l'istituzionalizzazione, intesa anche in senso culturale, portando dietro quindi questa cultura dell'assistenzialismo, possa continuare a essere ancora così utilizzato. Senza adesso additare in quale paese europeo sia più utilizzato o meno, di per sé in tutta Europa ancora c'è questa cultura dell'istituzionalizzazione, dell'assistenzialismo, e penso sia il momento si possa andare oltre per trovare forme di cura alternative, più moderne e più focalizzate sui bisogni reali di questi bambini. Quindi lasciare i bambini in un, diciamo, in un ambiente familiare o pseudo familiare o in piccole comunità, per esempio. La priorità assolutamente per quel che ci riguarda è che ogni bambino possa avere e godere di una famiglia. Ovviamente dove ciò non è possibile,